Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. YouTube Social Network. Eccoci trovati nella seconda ora del nostro RadioTube. Nella prima ora, quella di RadioTube Social Village, abbiamo parlato tantissimo di serie TV, con la nuova serie TV di Luca Guadagnino, ma anche con tutte le segnalazioni sulle serie che stanno per arrivare in questo mese di ottobre. Poi abbiamo parlato della riedizione di un disco di 25 anni fa, ma soprattutto di un gruppo che per l'occasione si riforma, quindi è una storia di musica ma anche di amicizia, quella dei Desfros, quindi Davide Van Desfros, che poi proseguito come solista con la sua band delle origini. E poco fa abbiamo parlato di questo libro, veramente un tomone, un volume davvero pesante, molto denso e che vale la pena spulciare, perché è l'opera omnia dei testi di Francesco De Gregori, con tantissime note, tantissime spiegazioni, la storia dei brani. Ovviamente Enrico De Regibus, che è l'autore ed è anche un amico ed è anche una persona molto umile, non ha voluto dire che è stato avallato da Francesco De Gregori, ma di fatto sì, perché domani lo presenteranno insieme a Roma e poi Francesco De Gregori ha controllato personalmente tutti i testi, lo avete sentito nella trasmissione, non è una persona che lascia nulla al caso. Seconda ora di RadioTube Social Network, quindi tutta l'attualità della rete dalla rete. Vi ho detto che parleremo molto di musica, parleremo anche molto di radio, perché c'è il mio co-conduttore d'eccezione che questa sera è Simone Fattori. Ciao. Eccoci, Simone. Finalmente. È la prima volta che siamo in radio così insieme, sì, uno davanti all'altro, in studio. Sì, in studio. Allora dai, retroscena, io conosco Simone da 19 anni. E mezzo. E mezzo, perché ci siamo conosciuti al mio primo Sanremo 2001. Che invece per me era già il sedicesimo, qualcosa sì, del genere. Sì, ma perché hai cominciato da bambino. La voce di Simone Fattori la conoscete già perché ci ha accompagnato durante tutte le puntate di I Love My Radio. E tra poco vi sveleremo la conclusione di questo progetto delle radio italiane, cioè hai tenuto compagnia per tutta la primavera fino quasi all'estate. E nell'ultima puntata che avevamo fatto insieme abbiamo annunciato che sarebbe uscito il libro Suoni nell'etere, 100 anni di musica e radio, edito da Volo Libero, e io ce l'ho in mano, ce l'ho finalmente qua. Finalmente è uscito. Eccolo, finalmente è uscito. Quante pagine sono? 368. 360, che bravo che conosce il numero. Beh, delle pagine del libro. L'ho scritto ah, pagina mica, allora, A, non è detto che l'autore, perché ce n'è tanti che in realtà i libri non li scrivono, e poi, ma sì, non lo so, 368 pagine. Tra l'altro un libro che curiosamente è nato dalla tua tesi di laurea. Sì, parte da quel momento, ma nel frattempo ho continuato, perché tra l'altro la tesi di laurea, adesso denuncio anche la mia età, ma è stata fatta in epoca pre-internet, per cui tutte le ricerche erano molto complicate da fare sui libri. Poi nel frattempo c'è stato l'avvento di internet, per cui delle cose che avevo raccontato lì, di quei momenti, ho trovato addirittura anche dei file audio, quindi li ho potuti ascoltare, dei momenti storici della radio. Ho continuato a mettere da parte cose, ritagli di giornale, siti internet, cose che avevo trovato, e alla fine sono stato contattato dall'editore che aveva avuto questa idea e aveva detto: vorrei fare un libro su questa cosa. Beh, io ce l'ho già pronto, perché poi ci ha voluto un anno per metterlo insieme, però insomma c'era del materiale da mettere insieme ed è venuto fuori questo libro che ha la presunzione di ricostruire 100 anni di storia del rapporto tra la radio e la musica. Presunzione, perché è impossibile, però insomma abbiamo messo insieme tante belle storie. Alla fine è venuto fuori più che un saggio, un romanzo, perché ci sono dei personaggi che sono straordinariamente romanzeschi e ricorrenti anche nel corso della storia della radio e della musica. Bello, sono confesso che già ne ho letto buona parte, ma il volume è intonso perché io l'ho letto prima. Io l'avevo letto già Internos, ho già letto un po' di cose. Dentro ovviamente c'è anche Radio 24, ma ovviamente c'è anche Marta. Bisogna cercarla bene, perché verso vi do un indizietto, verso la fine, proprio verso la fine c'è anche Marta. Ecco, va bene, va bene. Simone, dai, commentiamo insieme un po' di notizie della rete e dalla rete, sì, questa settimana. Ovviamente la notizia che ha fatto più rumore è questa. President Trump and First Lady Melania Trump say they have tested positive for the coronavirus. He tweeted this early this morning, we will get through this together. The news came hours after the president. Io mi sono svegliata la mattina, ho aperto gli occhietti, io poi ho questo brutto vizio di controllare subito la posta. Vabbè, di guardare se sono arrivati i messaggi, perché ho sempre paura che ci sia qualcosa, magari ho lasciato dei pezzi in radio che non vanno bene, che vanno rifatti, controllo la posta, ahimè. E controllo soprattutto Twitter per vedere se è successo qualcosa, notizie importanti, prima ancora delle agenzie. E quella mattina Trump positivo al coronavirus. Devo dire che io non sono molto favorevole all'ironia, ai meme, alle prese in giro, no, su questa cosa, su questi temi. È vero. Però la rete invece si è scatenata. Devo dire che anch'io ho fatto la stessa cosa, cioè faccio la stessa col tuo stesso ordine la mattina. Anzi, io apro direttamente prima Twitter, che ha nella vita dei giornalisti ha sostituito le agenzie. Una volta aprivamo le agenzie, adesso apriamo Twitter, e anch'io ho scoperto questa cosa. Devo dire, forse ero un po' assonnato, ma il primo pensiero è stato: ma non era già stato positivo tempo fa? Ah, perché la tua mente aveva pensato a Boris Johnson. Sì, li avevo un po'... Ecco. L'avevo messo nel calderone dei prima negazionisti e poi positivi, quindi negazionisti pentiti, diciamo così. E quindi poi ho realizzato che invece non era così. E mi sono subito preoccupato anche per il recentissimo scontro che c'era stato, il duello, perché poi... quest'anno i due contendenti alla Casa Bianca hanno tutti e due un'età. Una certa età, certo, quindi... sono a rischio. Bisogna proteggere. Sai, tra l'altro pensavo, tutti questi leader politici che effettivamente si ammalano perché incontrano tantissime persone. Certo. E quindi purtroppo più persone incontri, più è rischioso. Allora, dibattito, anche quello non l'ho seguito di notte, ma la mattina ho letto tutti i tweet che lo commentavano. Manca poco alle elezioni americane, dimmi che c'è una connessione anche con i 100 anni della radio. Sì, c'è una connessione, perché tra poco ci sarà un anniversario importante per quanto riguarda la radio. Adesso non vi sto a fare la storia della tecnica, però all'inizio la radio è un telegrafo parlato fondamentalmente, ma a un certo punto qualcuno decide che si potrebbe fare una trasmissione nella quale una persona trasmette, parla a microfono o fa addirittura ascoltare la musica, ma quello è un passo successivo, e tanti ascoltano. E questa magia comincia nel 1920, e guarda caso comincia il 2 di novembre, proprio in occasione delle elezioni presidenziali americane. Beh, fantastico! Sì, lo scontro è tra Warren Harding, repubblicano, che poi vincerà e diventerà a marzo il 29esimo presidente degli Stati Uniti, e James Cox. E questa telecronaca, che forse possiamo ascoltare, ce l'abbiamo, è la prima trasmissione radiofonica, e quindi tra pochi giorni, ormai il 2 di novembre, questa trasmissione compirà 100 anni e con lei tutta la radio. Eccola qui. This is KDKA of the Westinghouse Electric and Manufacturing Company in East Pittsburgh, Pennsylvania. We shall now broadcast the election returns. Beh, ci si schiariva la voce, sì. E non era ancora maleducato, perché non si sapeva ancora com'era. Certo. No, ma tra l'altro, cioè, ho appena fatto la faccia dello stupore, perché Valeria in regia mi ha appena ricordato che domani è il 4 ottobre, quindi è il compleanno di Radio 24. Tutto torna, vedi? Tutto torna il 4 ottobre, quindi facciamo 21 anni. Mamma mia, cominciamo ad avere una certa età. Alessandro Schirano quasi non è rinato. No, scherzo, non è rinato. Era elementari. Il nostro Alessandro in redazione. Radio 24 può bere legalmente negli Stati Uniti. Ecco, dice. Allora, ma passiamo all'Inghilterra, perché questo invece è un audio che io ho scovato poco fa. Infatti ho chiesto ad Alessandro Schirano di recuperarmelo al volo, perché è stato postato un'ora fa dall'account ufficiale, sto parlando un po' in inglese, ufficiale dei reali inglesi, Ma sentiamo che audio è. Simone, tu non sai ancora cos'è, io lo trovo bellissimo, eccolo qua. Hello David Attenborough, what animal do you think will become extinct next? Well, let's hope there won't be any. Because there are lots of things we can do when animals are reduced to and allora, danger of extinction. David Attenborough, leggenda dei documentari della scienza, questa settimana ha aperto il suo account di Instagram e tipo dopo due minuti aveva centinaia di migliaia di follower. Adesso vado a vedere quanti ne ha adesso. Ci sono dei bambini che gli chiedono delle cose, appunto, quale sarà il primo animale che viene estinto. Poi una bambina gli chiede, ma anche a lei piacciono i ragni? Così. Ma questi bambini sono il piccolo George e la piccola Charlotte. Cioè, che dire? Beh, insomma, no, due sudditi non da poco, diciamo. più che sudditi, uno è un suddito erede al trono. Esatto. Ma che meraviglia! No, andate a vedere questo video perché i bambini sono bellissimi e come diceva adesso Valeria, ma come parlano bene l'inglese! Oh, come parlano bene l'inglese, proprio la nostra... Quello perfetto, da BBC, direi. Ah, allora cosa possiamo dire della BBC? Beh, è fantastica la storia della BBC, una cosa che mi ha colpito scrivendo il libro è che all'inizio gli annunciatori di BBC, perché non avevano nessun tipo di autonomia, dovevano annunciare, leggere quello che era scritto da qualcun altro e approvato chissà da quante persone, ma pur essendo in radio dovevano presentarsi in studio in smoking. Accidenti. E quindi oggi, io per esempio oggi non... maglione, io ho una giacca, vabbè, poi forse sono un po' scollata per la BBC dell'epoca. Beh, però insomma, saresti in perfetto stile BBC, potresti trasmettere quantomeno. Con questo gessato, sì. Con la giacca gessata potrei. Allora, 17:17, siamo un po' in ritardo, diamo la linea alla viabilità, poi saremo ancora insieme con RadioTube. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... RadioTube Social Network. Eccoci ancora insieme nella seconda ora del nostro RadioTube, quella di RadioTube Social Network. Stiamo parlando come sempre dell'attualità della rete e dalla rete e stiamo facendo anche un po' di riferimenti alla storia della radio con il nostro co-conduttore Simone Fattori. Ancora benvenuto Simone. Grazie. Autore di Suoni nell'etere, 100 anni di musica e radio, un libro che ci racconta appunto un secolo di radio e un secolo appunto con a braccetto con la musica. Conoscete la voce di Simone perché è stato con noi durante tutte le settimane di I Love My Radio. Facciamo 5 canzoni ogni settimana e annunciavamo già all'epoca un evento speciale per la fine di I Love My Radio. Allora, l'evento sarà domenica 11 ottobre alle ore 21, un evento presentato da Gerry Scotti con Elisa, Tiziano Ferro, Francesco Gabbani, J-Ax, Mahmood, Negramaro, Tommaso Paradiso e poi anche Amadeus, Ambra, Renzo Arbore, Carlo Conti, Fiorello e Linus, in diretta sulle radio, sui siti delle radio, e verrà svelata la canzone vincitrice tra i 45 brani della nostra vita, uno per ogni anno dal 1975 al 2019, i brani che avete votato su ilovemyradio.it. Quindi, non abbiamo indiscrezioni, io sono curiosissimo di sapere. Sono abbastanza curiosa, anche perché io ero... Ma io ero molto indecisa, cioè già sceglierne tre, non mi ricordo quale ho votato perché ero molto combattuta. No, io alla fine non ho votato perché ero indeciso tra 12, 13. No, ma infatti, no, credo di averne votate tre tra le tante che purtroppo, devo dirti la verità, soprattutto quelle dei primi anni. Eh sì. Cioè, beh, mi sono un po' sentita vecchia. Ma no, perché quando eravamo bambini abbiamo interiorizzato queste canzoni e quindi attraverso poi la radio le abbiamo riascoltate nel corso degli anni. Io ti ho raccontato la prima, perché ero quasi in età, alla prima ho legato la prima cotta della mia vita, insomma. Nel 75? Avevo 4 anni. Simone! Sì. Davvero. È stato un grande amore, tra l'altro, è durato qualche settimana. Non ti conoscessi, estivo. Simone, ti un ricordo che tua moglie potrebbe essere all'ascolto. Sicuramente all'ascolto. Ciao Elenia. Allora, parliamo di calcio. Tu sei sempre tifoso? Io sono sempre tifoso, sto cercando di smettere perché ultimamente mi sono abituato bene, non dirò perché tifo, ma l'ho già detto praticamente. E quindi temo che arriveranno tempi cupi. Beh, però dai, un po' di competizione farebbe bene al calcio. Certo, però non sono più abituato a soffrire, ecco, diciamo così. Abbiamo capito. capito tutti per squadra tifi. Questa settimana è successo qualcosa di molto particolare, di particolarmente ansiogeno. Sentiamo qua. Gol! Simon! 9-3. 9 rigori segnati e 3 no. Ancora Aderlan Santos. È una serie pazzesca, i nervi di tutti noi sono a durissima prova, il sistema nervoso non è più d'acciaio, è solo un'ipotesi il nostro sistema nervoso. Aderlan Santos contro Gigio Donna. La parata! Gigio! Anime, abbracciatevi! Le nostre anime, il nostro cuore, anime abbracciate. Beh, delirio assoluto. La gioia totale. Il Milan, siamo felici. Allora, ovviamente siamo, è la telecronaca felici del tifoso. Il tifoso è Mauro Suma. La vittoria con il Rio Ave è arrivata dopo 24 rigori e Mauro Suma è impazzito in diretta. Allora, il calcio non fa più per me perché per me è troppo. Cioè, così è troppo, dai. Io vorrei sottolineare due cose su questa vicenda. La prima è che stiamo comunque parlando di un preliminare di Europa League. No, perché certo, chi è all'ascolto può immaginare la finale del mondiale. Preliminare, sì, che serve per entrare nei gironi, per entrare nella competizione. Quindi. E poi soprattutto una serie così lunga di rigori purtroppo non è record, ma ora dice vabbè, non è record perché 15 anni fa è successo. No, perché qualche settimana prima e sempre nella stessa competizione sono arrivati a 26 rigori, quindi due in più. E quello è il record assoluto di rigori battuti per una... Vabbè, ma fate una... un tie break. Io che sa che il mio sport preferito è il tennis. Io avrei proposto la monetina molto prima. ok. È un momento molto particolare di grande divisione. Ne abbiamo parlato anche quando abbiamo commentato il film di Network, The Social Dilemma, che poi... è stato discusso in lungo e in largo durante questa settimana. Noi l'abbiamo visto e ne abbiamo parlato la scorsa settimana, direi. Ne abbiamo parlato due settimane fa. Oh, come passa il tempo quando ci si diverte. Perché i social network polarizzano tantissimo. Tra l'altro è pazzesco come, per tornare alle radio, la storia di 100 anni di radio passa prima da nessuna interazione, poi dall'interazione col telefono. Prima con le lettere. Con le lettere. Poi col telefono, poi con i messaggi, le email, i messaggi, adesso poi messaggi, WhatsApp, social network, sempre più interazione. Messaggi vocali adesso. Messaggi vocali, sì. Che io dico sempre, non mandatemi perché tanto io non ce la faccio, non ci riesco ad ascoltarli, sono in onda, di là c'è Alessandro, impazziremmo. Però, allora, io dico sempre, in maniera un po', a volte sono un po' cattiva, ecco qua è arrivato. Vecchia babbiona, ma soprattutto falsa. C'è un ascoltatore che sempre a quest'ora, che sempre a quest'ora arriva con un po' di insulti. Ah, sempre gli stessi o li cambia almeno? No, sono abbastanza prevedibili. Ah, ok. Cioè, babbiona... Babbiona, sì. Era tra l'altro tantissimo tempo che non l'ascoltavo. È carino, eh? Sì. È carino. Vecchia babbiona si porta. Però, allora, io rido perché ovviamente, mi tiene compagnia. Cioè, così poi controllo che stia sempre bene, sia sempre all'ascolto e mi fa piacere. Anche se non ci conosciamo, mi fa piacere sapere che è con noi. Però, in realtà, il problema degli insulti, di quello che si chiama hate speech, cioè discorsi d'odio, è un problema molto serio. In Italia ci sono 52.000 tweet di hate speech in una sola settimana. Ed è nata questa settimana, in questi giorni, la piattaforma per difendere gratuitamente le vittime di insulti social. L'iniziativa si chiama Stop alle offese e ne parliamo con Andrea Barchiesi, CEO di Reputation Manager. Andrea, buonasera e bentornato a RadioTube. Buonasera, grazie. Allora Andrea, intanto... come funzionerà questo servizio? Allora, anzitutto l'idea è quella proprio di dare la possibilità a tutti, perché ovviamente i VIP hanno già avvocati, stuoli di PR, certo, ma la persona comune invece è veramente la vittima di questo mondo, ed è soprattutto numericamente la vittima più spesa. Noi poi crediamo che il vero cambiamento può avvenire solo dalla base, sostanzialmente come funziona? In quattro step fondamentali: analisi del caso, questo è fondamentale perché ovviamente anche qua che cos'è un insulto? Entriamo in un tema delicato, sicuramente certo. Non fa toccare la libertà d'espressione, quindi un'opinione non è un insulto. Poi magari se vi interessa ci sono un po' di fenomenologie di soggetti che hanno commentato la nostra iniziativa e sono molto divertenti, uno dei quali ad esempio è il libertario che dice allora non si può più dire nulla online. Beh, allora io sono liberale, non riesco ad arrivare fino ad essere libertaria, però diciamo che un limite da qualche parte forse ci deve essere, ecco. Assolutamente sì, ma non capiscono il confine che c'è tra libertà d'espressione e insulto, che invece è certo. Molto marcato anche nel giuridico. La seconda parte è l'acquisizione delle prove, viene proprio presa una prova dell'offesa, perché come sapete internet è qualcosa di elettrico, di labile, invece ci sono delle tecniche, c'è l'applicazione della prova, c'è l'avvio di un iter legale, tutto gratuito, ripeto, e alla fine gestione del caso. Questo è un modo un po' come per introdurre il velox all'interno dell'autostrada. So che il velox è odiato da tutti, ma senza velox, senza una multa in qualche modo a chi trasgredisce, come sarebbe girare per strada? No, mi piace molto questa premessa del rendere accessibile a tutti una cosa che sarebbe per pochi, Simone, molto interessante. Sì, in effetti il problema esiste e stavo pensando ai casi che ci sono tutti i giorni di persone, soprattutto pubbliche, ma non solo, perché poi quelle sono quelle che fanno notizia, ma ci sono delle persone che invece sui social ricevono insulti, che ne so, per una foto postata. Pensiamo a quante ragazze hanno dei problemi perché hanno dei commenti negativi a foto fatte da persone che magari in quel momento non si rendono neanche conto delle conseguenze che potrebbero cose avere. Cose che non faresti mai di persona. Sì, certo, che non faresti mai di persona e che magari fai anche in un momento di noia, di rabbia per altre cose, ma che però sono importanti poi per la vita delle persone che li ricevono. Ecco, questo è sicuramente un tema da affrontare anche dal punto di vista legislativo, secondo me. Sì, devo dire che nei confronti dei personaggi pubblici c'è questa sensazione per cui, siccome sono popolari, siccome ci immaginiamo che siano ricchi, facoltosi, poi non è sempre vero. E comunque che connessione c'è? Nel senso, se uno guadagna bene deve essere insultato. Noi possiamo permetterci di dire loro qualsiasi cosa, noi dobbiamo invece ricordarci, Andrea, che dietro la tastiera e dietro lo schermo dall'altra parte ci sono delle altre persone e che magari certe cose che non diremmo mai di persona dovremmo non dirle neanche con la tastiera. Punto. Viene visto il social come se fosse non vero, ma questo soprattutto la generazione precedente interpreta i social network come se non fossero una vita. Infatti molto spesso sento l'adagio: ma staccate gli occhi dal telefono e andate a vivere la vita. Non hanno compreso che in realtà i nuovi flussi sociali di comunicazione passano attraverso queste cose, si giocano proprio i ruoli identitari dei ragazzi e anche degli adulti ormai. Quindi in realtà è una cosa seria, molto seria, che ha portato a conseguenze anche gravi, come sappiamo. Allora io voglio segnalare il sito, il vostro portale, che è stopalleoffese.it, perché appunto i quattro step: analisi del singolo caso, acquisizione delle prove, avvio dell'iter legale, gestione e chiusura del caso, tutto gratuito per chi ne avesse bisogno, visto che appunto chi può ha uno stuolo di avvocati, chi non può spesso si trova inerme di fronte agli attacchi in rete. Grazie ad Andrea Barchiesi, grazie anche per questa iniziativa molto importante di Reputation Manager, tu in particolare. Grazie Andrea, alla prossima. Grazie Andrea. Breve pausa e poi saremo ancora insieme con RadioTube. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta RadioTube Social Network. Eccoci insieme per l'ultima mezz'ora del nostro sabato pomeriggio in diretta con RadioTube Social Network, con il co-conduttore d'eccezione di questa settimana, Simone Fattori, autore di Suoni nell'etere, cent'anni di musica e di radio, edito da Volo Libero. Ancora ben trovato, Simone. Grazie, che bello, sto benissimo, non andrei via proprio oggi. Vuoi occupare? Beh, sì, quasi quasi. Quasi quasi. Quasi quasi. 100 anni di musica e radio, però ti devo fare una domanda e per entrare in tema andrei a sentire un pezzettino di un video che in poche ore, adesso ti dico subito, è stato pubblicato il giorno 2 ottobre, cioè ieri, e ha 72.235.003. La mia è la terza visualizzazioni ed è questo. Se ti stai chiedendo cos'è, non so quanto sei preparato sul K-pop. Non ho l'età, purtroppo. Non ho l'età? Ok, la risposta è esatta. Ne abbiamo parlato qualche volta in RadioTube perché è un'onda inarrestabile. I ragazzi molto giovani, soprattutto le ragazze, sono pazze di questo pop coreano. Ci sono boy band e girl band con una fama incredibile, appunto. Cioè, le Blackpink hanno 49,8 milioni di iscritti nel mondo. Ah. E questo video, appunto, 72.235.003 visualizzazioni. Adesso se lo chiudo e lo riapro, chissà quante sono di più. Già, 441 già in questo. Dopo 30 secondi. La cosa che mi fa impressione, che è interessante secondo me da sottolineare, è come adesso i ragazzi, ne abbiamo parlato spesso, scoprano la musica dalla rete, dai video in rete. Addirittura è nata quella che chiamano la SoundCloud Generation, cioè i ragazzi che scoprono la musica fatta da questi artisti che mettono i loro brani sulla piattaforma di SoundCloud, che è una piattaforma per condividere gli audio, per condividere la musica. La radio, in molti casi ormai, la radio tradizionale trasmette musica e parla di musica che è già diventata famosa, sì. Quasi che arrivasse un pochino in ritardo. Ma io ho anche l'impressione che invece tutta questa onda che io vedo arrivare, ma che, come dire, non posso comprendere, ma la vedo arrivare sia proprio esclusa dalla radiofonia italiana, cioè non sia proprio considerata. È come se fosse un mondo parallelo che vive attraverso la rete e che si ferma lì, si fa per dire, nel senso che probabilmente è la parte maggioritaria poi dell'ascolto della musica, e noi che ancora ascoltiamo la radio e che amiamo la radio probabilmente siamo la parte invece residuale, quelli legati alla memoria, come è il rischio che finisca questa vicenda, no? Vabbè, Radio 24 non c'è programmazione musicale, quindi noi siamo ancora un'altra cosa, ecco. Certo. Devo dire che soprattutto su questi fenomeni, allora, sul rap, la trap, le radio hanno seguito l'onda. Hanno sì. seguito l'onda, sono i ragazzi riescono ad essere ancora più avanti, però le radio hanno metabolizzato. Questa cosa del K-pop è sfuggita completamente. È ancora qualcosa che viaggia solo attraverso la rete, ma con dei numeri assurdi. Ma soprattutto credo che questa sia una cosa molto diffusa nel mondo, nel senso che non è soltanto la radiofonia italiana, è la radiofonia mondiale che ancora non si è accorta di questo fenomeno, o comunque non lo sta trattando, ecco, perché accorgersi è impossibile non accorgersene, però non lo sta ancora trattando e non ha ancora deciso di inserirlo nella programmazione. Io non sono un'appassionata di K-pop, anch'io non ho l'età, però ti dico che ormai guardo una quantità di serie TV coreane che quasi capisco il coreano, che guardo tutte ovviamente sottotitolate, sono bellissime. Ma i ragazzi non solo hanno in parte sostituito non tanto l'ascolto del mezzo radiofonico quanto la scoperta di nuova musica, sì. Hanno sostituito la rete alla radio per scoprire nuova musica, ma hanno anche sostituito per certi versi la televisione con i video su YouTube. Anche questo è un argomento che noi affrontiamo spesso. In questo sono molto giovane, perché io guardo un sacco di video su YouTube, ho tutti i miei canali preferiti, sono iscritta a tutti i miei canali preferiti, come sono giovane dentro. E io sono una pazza, e lo sanno gli ascoltatori, perché ogni volta che c'è un nuovo video io non resisto, di Casa Surace, in particolare di Nonna Rosetta. Cosa avrà combinato questa settimana? Eccola. Buongiorno. Buongiorno. Vi preparo una bella colazione. Ehi, nonna, vedi come te lo dico, eh? Io mi bevo solo un bicchiere di latte e vado avanti. Non fare quelle cose tue e cominci a cacciare tutte cose dai mobili. Chi? Io? Che poi ci appesantiamo e ci dobbiamo andare a coricare. Non l'ho mai fatto. Colazione, eh? Vabbè, nonna. A te, invece, ti ho preparato una cosa speciale. Sei troppo sciupato, eh? Ti ho fatto solo questa. Wow! Signora, ma che roba è? Ma come che roba è? Zabaglione. Ma hai sentito? Cosa ci sarà dentro? Ricky, ti fidi di me? Devi di solo il latte. Ho capito, ma l'ha fatto apposta per me, lo devo assaggiare per forza. Ha detto che sono sciupato, sarà sicuramente qualcosa non di buonissimo. Non te lo bere, stammi a sentire. Ma cosa sarà mai? Dai, giusto per assaggiare, dai. No, no, no, no, Ricky, no, no, no! Che cosa ti avevo detto? Non lo bere, tu non mi sei mai a sentire. Non è la quantità che conta, è la densità. Quello zabaglione di nonna sta dopo l'urario prima del plutone. Aspettiamo un'ambulanza. Che fai con l'ambulanza? Vuoi chiamare zio Tonino col furgone, che è capiente. Che fai con l'ambo? È bellissimo, è bellissimo. Benvenuto ad Alessio Strazzullo, uno degli autori di Casa Surace. Benvenuto, Alessio. Ciao. Oh, che bello. Infatti io... oggi ho visto questo video e ho scritto al nostro Alessandro Schirano: voglio essere adottata da una nonna così. Guarda che lo zabaglione è pesante la mattina. Quindi, lo so, attenzione. però che meraviglia, che cosa bella. Sono contentissima perché è arrivato sulla mia scrivania, non ho resistito, il manuale del fuorisede di Casa Surace. Cioè avete addirittura pubblicato il manuale del fuorisede. Che tra l'altro, a me, sai perché mi piace molto? Perché mi sembra di essere tornata al manuale delle giovani marmotte, quelle cose che abbiamo noi da ragazzini, è fatto proprio così, bello, bello, mi piace molto. Come mai avete avuto questa idea? Allora, innanzitutto ciao a tutti quelli che ci seguono. In realtà noi siamo nati già fuori sede, nel senso che la nostra esperienza naturalmente parte dall'essere amici che condividevano spazi. Forse condividevamo fin troppi spazi in comune, diciamo. E quindi Casa Surace nasce proprio in questo contesto, appunto nel contesto dei fuorisede che vivono lontano da casa, tant'è che è stato uno dei primi temi che abbiamo esplorato poi, no, con i video su internet. E quindi anche la nostra community ha risposto molto velocemente a questo tema qui, e ci piaceva un po' tornare alle origini, provando anche a raccontare e a consigliare tutte quelle cose che normalmente non ti vengono dette e che impari durante la vita da fuori sede. Certo. Perché ci sono effettivamente delle cose difficili da fare quando vivi lontano da casa, e all'interno di questo manuale ci sono un sacco di cose anche che possono sembrare molto banali, ma che semplicemente se qualcuno non te le dice, tu non le fai. Ad esempio, sì. Guarda, io leggo da pagina 87 e la leggo, sì, guardando Alessandro Schirano dall'altra parte del vetro. Ok. Perché... non dite a un barese, ma in questo caso direi neanche a un tarantino, per esempio, che siete stati tante volte in Salento. Non è che si arrabbia, ma è un fatto di educazione. Salento e Puglia sono come se fossero due continenti diversi. Non avete idea di cosa sta facendo Alessandro Schirano? Non lo posso dire. Alla base, naturalmente, c'è quell'elemento che contraddistingue e unisce tutti i popoli del sud. Il calore. No, non è vero. Il cibo. Alessandro, di la verità, è vero. Cioè, non bisogna confondere. Cioè, qui ci sono delle istruzioni per l'uso, non bisogna confondere. Sì, assolutamente. Diciamo che tutta questa parte qui poi è legata a dei consigli per avere a che fare in modo più semplice con i coinquilini più svariati, perché è un altro degli elementi più importanti, che poi è l'elemento che ha fatto in modo che noi potessimo parlare di fuorisede in modo così divertente, è proprio l'incontro, no? Cioè il fatto che nelle case dei fuorisede ragazzi del nord, del sud, del centro, insomma, condividono stanze, amicizie e oggetti, e quindi da questo incontro diciamo nascono sempre cose divertenti. Però bisogna stare attenti, nel senso bisogna rispettare anche la provenienza. Anche divertendosi, perché è molto carino. Allora, prima di dare la pausa per la viabilità, anche perché voglio chiedere a Simone, tu ce l'hai avuti coinquilini di varie provenienze? Sono stato fuori sede fino in tarda età, diciamo. Sì, ma infatti un'altra cosa che ci teniamo a precisare è che poi in realtà questo manuale va bene per tutte le persone persone che dopo aver, essere stati fuori sede studenti sono diventati fuori sede lavoratori, perché è un altro fenomeno, esatto, cioè, molto, molto importante. No, ma più che altro io avevo una curiosità sullo zabbaione. Allora, aspetta, sì, facciamo una cosa. Sì. Diamo la linea alla viabilità e poi rientriamo con lo zabbaione. A tra poco. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Radio Tube Social Network. No, no, grazie, mi ha messo i biscotti nel latte. Oh, ma quale biscotto è biscotto? Pane da fermo. Te lo potevi dire prima, sto spezzando i denti. Lo devi fare sponzare, se no è troppo tosto. Io lo metto a sponzo da ieri sera. Senti come sa e che sapore. Allora, io lo sponsare l'ho imparato da Vinicio Capossela, perché io non lo conoscevo, e l'ho imparato sempre questa volta a casa sua ci abbiamo anche il nonno. Allora, Simone Fattori aveva una domanda per Alessio Strazzullo, autore di Casa Surace, sullo zabbaione. Sì, innanzitutto che le nonne del sud si somigliano molto, insomma ci sono delle piccole differenze, ma si somigliano tutte quante, e poi anche il concetto di sud è abbastanza allargabile. Allora, diciamo, tu sei ciociaro, come ti sud, consideri? Assolutamente sud. E soltanto che mia nonna lo chiamava uovo sbattuto, non so se è la stessa cosa. Allora, anche in Brianza si faceva l'uovo sbattuto, non so se è la stessa cosa. Con una variante. Diciamoci la verità, ogni nonna è paese, quindi non ci sono tante differenze. Sì, sì, sì, le nonne del sud e le nonne del nord sono un territorio extranazionale, sì, quindi non... Sì. Valgono dappertutto. Sì, questa settimana c'è stata la festa dei nonni, grande nostalgia, sì, perché sono bisognerebbe avere i nonni per tutta la vita, sì, non so come. Sì, sì. Sarebbe perfetto. No, diciamo che sicuramente penso che l'uovo sbattuto sia una variante un pochettino più, con un nome meno esotico, diciamo. Un'ulteriore variante anche preparata, esatto, anche preparata per i bambini, c'è cioè quello con il marsala, che dà sì, un po' di colore, sì, un po' più di sapore. Esatto, così invogli di più, cioè, quanto invogli di più averlo, non so poi effettivamente quanto sia adatto, però insomma, ma sì, ogni nonna. Ma noi facevamo, quando eravamo piccoli, noi c'erano anche cose non adatte, sì, ma non certo, lo sapevamo, eravamo, siamo diventati grandi lo stesso, abbiamo ma fatto certo cose. Allora, mi piace molto che il vostro manuale del fuorisede, il manuale del fuorisede di Casa Surace, fatemelo dire bene, ha vari livelli, livello base, livello sì, principiante, livello intermedio, livello esperto, livello temerario. Sì. Simone si è illuminato sul livello temerario. Mamma mia, com'è il fuorisede temerario? Beh, il fuorisede temerario è sicuramente quello che conosce le cose più difficili da fare, e tra le cose più difficili da fare sicuramente ci sono delle cose veramente scomode, come per esempio imparare a sturare un water, ad esempio. Cose complicate con cui comunque, perché cioè, io spero che tutti fuori sede in ascolto insomma non si trovino mai in questa situazione, però se ti ci trovi in questa situazione e magari ti mancano gli utensili per riuscire a sbloccarlo, ma devi sbloccarlo magari una domenica, noi consigliamo anche dei metodi interessanti insomma per farcela. Mi piace molto. All'interno ci sono un po' di chicche che ti permettono anche cose molto più semplici, ma anche veramente consigli molto, molto semplici, anche semplicemente il fatto che una volta che hai mangiato, che è una cosa che le nonne del sud e le mamme del sud fanno sempre, cioè i piatti li lavano subito, immediatamente. Cioè probabilmente tu stai ancora mangiando e loro già stanno lavando i piatti che tu hai usato durante il pranzo. Effettivamente ti permette di non creare delle pile stratosferiche. Guarda, io ci penso una volta, ogni volta che quando entro in cucina vedo che la pila dei piatti ha superato il livello del lavabo, e quindi lo vedo entrando in cucina, mi rendo conto che forse aveva ragione mia nonna. È già troppo tardi. È arrivato il momento di rinunciare. Quindi per tutti fuori sede, per tutti quelli che hanno le nonne, che vorrebbero avere ancora le nonne vicine, ma che soprattutto hanno dei coinquilini, ma anche se non ce li hanno, io mi sono divertita moltissimo. Il manuale del fuorisede di Casa Surace, edito da Panini Books. Grazie Alessio Strazzullo, a presto. Grazie a voi. E ciao, mi raccomando, ciao, un sacco di video di Casa Surace, perché io li aspetto sempre con ansia. Sì, ma siamo ripartiti molto molto forte. Bene. Ne vedrai degli altri nei prossimi giorni. Ah, che meraviglia. Ho detto che meraviglia. Grazie Alessio, grazie. Ciao, non posso ciao, dire ciao. Che sai Simone, che quando dico che meraviglia devo... Pagare una multa? Sì. No. Sì, perché mi hanno detto gli ascoltatori, lo dico. Sono stata bravissima questa, non l'ho detto quasi mai. Vabbè, lo abboniamo questo. Dai, lo abboniamo. Volevo farvi sentire un audio, ma siccome mi sono dimenticata di prenderlo, lo faccio sentire dal mio tablet. Aspettate che... ragazzi, mi sono dimenticata. Facciamo così proprio artigianale. Più social di così. Vediamo se si sente. Non riesco a farvelo sentire. Vabbè, insomma. Volevo farvi sentire Leone, Ferragni, che io... che a me piace tantissimo. Io passerei la vita a vedere gli audio, vedere i video di Leone Ferragni, che adesso ha imparato a parlare, e dice delle cose bellissime, fa i versi degli animali. E insomma, questa settimana Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato il bis. Tra l'altro c'è un bel pezzo oggi sul Foglio di Maurizio Crippa, dalla parte dei Ferragnez, l'elenco di quelli che li odiano perché non capiscono il nuovo mondo è lo stesso di quelli che detestiamo noi. E questa settimana, proprio nello stesso giorno, allora la foto sui social di Leone con la foto dell'ecografia vista, era inevitabile, inevitabile anche. E la foto di John Legend e Chrissy Teigen, che invece hanno perso il loro terzo bambino, e questa foto drammatica che è stata ripresa da tanti quotidiani, una foto veramente da strappacuore. Due foto quasi opposte che sono praticamente piombate nella rete nello stesso giorno. Forte come sensazione. Tu sì, le hai viste, cosa hai pensato? Beh, io ne ho vista soltanto una e... cosa ho pensato? Non lo so. Sono sempre un po' contrario a questo tipo di spettacolarizzazioni da una parte e dall'altra, però credo che ormai siano dei processi assolutamente inevitabili per chiunque. Quindi, ma anche per le persone comuni. Eccolo qua. Come fa il coniglietto? Lui fa la faccia del coniglietto. Come fa il coniglietto? Come fa il coniglietto? Ecco, io impazzisco, io potrei vedere video di Leone Ferragnez, l'ho chiamato. No, Leone Lucia, come si chiama? È bellissimo, Leone Lucia, lo trovo fantastico. Allora, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Lo so che tu vuoi occupare lo studio, io ti lascio qui se vuoi. Ti adotto per tutte le puntate di RadioTube che vuoi. Vorrei però... Lo dico per la regia, basta che mi mettete il microfono in cuffia senza mandarlo in onda, io sto qui. Così lo rendiamo. Nessuno lo mi ascolta, ma io sono contento lo stesso. Vabbè, lo diciamo. Allora, Valeria Bernardi in regia. Ringrazio anche Alessandro Schirano in redazione, che mi ha dato ragione su questa cosa, questa differenza tra i tarantini e i salentini. Vabbè, poi ce la facciamo spiegare bene. Si conclude qui il nostro RadioTube di questa settimana. Domani mattina ci sentiamo comunque per il nostro RadioTube l'intervista. Non vi anticipo chi c'è, ma insomma, lo scoprirete domattina. Parliamo di cinema, di un film che è appena uscito. Ricordo ancora Suoni nell'etere, 100 anni di musica e radio. Grazie a Simone Fattori per essere stato con noi. Grazie a voi. Se posso, vi invito alla presentazione di lunedì sera a Milano. Ah sì, lunedì sera a Milano, certo. Ah, che bello. Lunedì sera presentiamo il libro a Milano. Sono molto contenta. Grazie a Simone. Noi ci ritroviamo sabato prossimo in diretta con RadioTube. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.